Questa è la tua vita. E quindi un ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con le interviste di Mystery Tour. E chi abbiamo dall'altra parte del filo? Ormai no, beh, ormai sono solo onde che si muovono, solo onde radio. Si muovono libere e ci danneggiano l'organismo, non lo so. Chi abbiamo dall'altra parte del filo? Buonasera. Buonasera, salve, sono Silvio Berlusconi. Oh, è un onore. Non sia mai, no? L'abbiamo già buttato sulla politica. Va, ricominciamo. Questa intervista potrebbe durare 15 ore, allora. Perché il processo... Solo per le domande. Esatto, lo facciamo noi il processo. Mamma mia, che brutte cose. E vabbè, no, parliamo di cose belle. Questa... La verità. Come va? Allora, sì, vabbè, dall'altra parte del filo c'è Massimo dei Gran Turismo Veloce. Mm-hmm. Perfetto. E va bene così? Solo Massimo? No. Solo Massimo, no, abbiamo accanto c'ho Claudio che è il tastierista del gruppo, che in realtà sta montando le tastiere perché siamo in sala prove. Dobbiamo rimontare il tutto dopo una data che abbiamo fatto a Roma, quindi stiamo rimettendo a posto tutte le i nostri armamentari. Conosciamo queste situazioni. Esatto. Allora, dunque, vediamo un po'. Allora, prima di tutto noi siamo entrati in contatto grazie al grande amico Loris, che salutiamo sempre con tanto affetto. Assolutamente. Personaggio fondamentale per la scena italiana e non solo. La musica di qualità, un personaggio coraggioso, e quindi lo salutiamo, gli mandiamo un bacione. Sì, anche perché è bellissimo, io gli mando tanti baci, ma in realtà gli mandano tanti baci di Gran Turismo Veloce perché non l'hanno mai conosciuto. Cioè, per me Loris Furlan è una lettera email, capite? Bellissima. Ah, questa, no? È un'entità astratta. È un'entità astratta, esatto. E quant'è che gli facciamo la corte di Loris? Ma almeno una pizza, una birra, qualcosa, beviamo. Ci sarà occasione. Quindi, ah, per ora non c'è mai stata splendida questa cosa. Ma noi guarda, lo conosciamo dai tempi della nascita della Lizard Records, tanti tanti anni fa, quando era ancora all'interno della Pickup Records, e siamo così contenti di essere ancora in contatto con lui. E quindi prima o poi si materializzerà anche per voi. Magari, questa entità superiore, capito? Esatto. Che ha reso tutto così possibile. Quindi voi siete arrivati a lui in questo caso, giusto? Esatto, esattamente. Cos'è successo? È successo che credo come la maggior parte dei gruppi nostrani e non, purtroppo, come dicevamo prima, fuori dall'intervista, diciamo, svegliamo questo certo piccolo segreto, il problema dei gruppi è suonare in giro. Noi ci siamo iscritti praticamente a quasi tutte le rassegne e i concorsi che siamo riusciti a trovare tra la Toscana e fuori la Toscana, e la fortuna ci è arrivata a Prato quando Samuele Sant'Anna dei Ravensad, che salutiamo assolutamente sempre e doverosamente, ha notato come nei migliori film e ci ha detto: ragazzi, la vostra musica è interessante, se volete ne parlo con la mia etichetta, che è appunto la Lizard. Esatto. E da qui un paio di telefonate, qualche scambio di mail, siamo arrivati, se di volta, a concretizzare il nostro primo piccolo progetto, cioè il nostro primo disco con Lizard Records. Ecco, perfetto. Infatti ricordiamo, salutiamo anche Samuele, abbiamo intervistato Ravensad in occasione dell'uscita dei dischi per Lizard. E ecco, allora il nome, l'artwork, il concept, questo surrealismo, una spiegazione, dai, se è possibile, se è possibile. No, è tutto assolutamente studiato, quindi è chiaramente possibile, anzi grazie di questa domanda, così ti ringrazio un po' di persone nel frattempo, perché in realtà quello che ci piace a noi dire è che Gran Turismo Veloce vorrebbe essere un progetto a tutto tondo, un progetto un po' più ampio che non sia soltanto la musica. Quindi partiamo dal nome, Gran Turismo Veloce, chiaramente richiamo a questi nomi stranissimi degli anni 70, tipo Premiata, Forneria, Marconi, Banco del Mutuo Soccorso, e la scelta del Gran Turismo Veloce è caduta perché ci è sembrato un omaggio doveroso a una cosa strettamente italiana, cioè la macchina, la dicitura Gran Turismo nasce in Italia negli anni 60-70 e poi è diventata uno standard all'estero, così come il Progressive negli anni 70 cominciava ad uscire dall'Italia e appunto, ad esempio, con la PFM soprattutto è sbarcata in America, in Giappone, e il resto è storia. Quindi il nome è questo qui. Artwork e concept per il disco ci hanno aiutato assolutamente un pittore di Grosseto, che è Francesco Serino, che salutiamo e ringraziamo ancora, perché in realtà il nostro disco nasce come figlio di un EP, di una cosa di 5 brani che avevamo fatto promozionalmente. Lui ci aveva disegnato la copertina con il suo stile estremamente particolare. quando poi si è verificata l'ipotesi di far diventare l'EP un disco vero e proprio, abbiamo chiamato un altro nostro collaboratore, che è Francesco Rossi, che è un grande fotografo, veramente di gran talento, qui di Grosseto, e ha trasformato quello che è il disegno di Francesco Serino nella copertina che poi comincia a girare sui siti internet. Certo, assolutamente. Ecco, come invece l'originalità, è difficile dunque stabilire quali possano essere le influenze per un progetto così originale, però voi ce l'avete chiara sta cosa o siete... Confusi? Assolutamente no. Quanto noi, perfetto. Okay. Vabbè, sarebbe stupido non dire che è negli ascolti di noi tutti che poi, cioè con gli ascolti di noi tutti ci riversano nelle cose che scriviamo. Certo. Quindi sicuramente c'è un grande influsso del progressive, però c'è tanta musica elettronica, c'è jazz, c'è metal, cioè questo è un po' un canone di tutti quanti. Sai, noi siamo arrivati al nostro sound, dalle esperienze diverse, una cosa che chiunque può dire ed è comunque sempre vera, è giusto che sia così. Diciamo che non siamo riverenti o inginocchiati davanti a niente in particolare, cioè quando scriviamo non è che diciamo ragazzi facciamo un pezzo alla Pink Floyd o un pezzo alla Peter Gabriel, certo. Scriviamo quello che ci viene. Semplicemente ci lasciamo trasportare da quelle che sono le emozioni dal momento, senza riferimenti chiari. Ok, senza riferimenti chiari, né musicali né, diciamo, letterari? No, assolutamente libera... no. Facciamo un po' come diavolo ci fare, ecco. Libera associazione di pensieri. La esatto. Vostra presenza online? La nostra presenza online è il sito in costruzione, però per adesso se gli ascoltatori digiteranno www.granturismoveloce.com abbiamo uno squallido, mi devo capire così, redirect sul MySpace che tanto al momento è il veicolo più grande ancora purtroppo per la musica emergente. E quindi intanto dal sito, poi dal sito, Facebook e tutto quant'altro, quando uno vuole vedere più, ascoltare la musica e soprattutto vedere quante... Si può dire stronzate in radio? Assolutamente. Ecco, quante stronzate diciamo al giorno, fondamentalmente è quello. Beh, in tempo reale. Ah sì, assolutamente. Ecco, poi torniamo ai dolori, e ai dolori quindi ecco. L'attività live. Ale, ecco la domanda da $100,000. Attività live, senti, ci stiamo muovendo grazie a fondamentalmente alla passione che hanno le persone per la nostra musica. Quindi, cioè, qualsiasi cosa veramente abbiamo fatto finora è stato molto italiano, nel senso per conoscenze, però non mi sento di diminuire questa cosa, perché appunto se non fosse per amici sparsi in tutta l'Italia che cercano comunque di fissarci le date, appunto sarebbe una cosa ancora più dolente, perché tanto questa è una cosa che non finiremo mai di dire. Il problema del live in Italia è che, come tutti sanno, portare un progetto originale, musica originale nei locali è quasi impossibile. Soprattutto se la musica che proponi non è proprio quella standard, capito, il poppettino, la cosa cantautorale. Quindi le date ci sono, imminenti niente, forse qualcosa a giugno verso Napoli, perché appunto persone si stanno muovendo, non lo so, è tutto in corso d'opera. Assolutamente, invece dal punto di vista compositivo si va avanti e... Progetti, senti, stiamo rimontando la sala prove proprio per questo. Stasera l'intenzione era cominciare a riprendere a lavorare sul secondo disco, in realtà è già a buon punto, perché comunque l'arrivo di Lizard è stato un fulmine a ciel sereno, cioè noi ci siamo ritrovati già comunque a comporre cose nuove e diciamo con Lizard abbiamo sfruttato la possibilità di pubblicare, appunto di far evolvere l'EP in un disco vero e proprio. Quindi il progetto è in corso d'opera, stiamo scrivendo un disco che anticipiamo che stiamo scrivendo un concept album alla moda degli anni 70, un concept album che sarà su favole per bambini, una cosa un po' strana, sì. Però chiaramente rivista in chiave nostra. I fratelli Grimm e il loro controllo sociale sul destino dei bambini. Una cosa del genere. Ma guarda, in realtà se qualcuno volesse ascoltarla, una cosa è già stata messa su YouTube, presa da un live che abbiamo fatto, che è una suite di circa 15, 16, 17 minuti su Alice nel Paese delle Meraviglie. Cioè, diciamo, stiamo cercando di prendere tutte quelle favole che quando eravamo piccoli ci sono rimaste un po' più impresse. e stiamo scrivendo le canzoni così. Perfetto. Allora, un messaggio finale di pace, di guerra, di amore, di odio all'umanità, all'umanità che ascolta. L'umanità che ascolta, i CTV gli augurano e incitano alla rivoluzione culturale. Sì. Perché è il momento che le cose cambino, perché non se ne può più dello schifo artistico e sociale che gira, e questo non lo dico con la vena politica, ma veramente perché secondo me è assolutamente necessario che la gente si svegli, anche perché una cosa, se vogliamo, triste, malinconica, e comunque te me lo confermerai, quando la musica nuova e di qualità, con questo non voglio incensare il Gran Turismo Veloce, però quando c'è roba buona che gira, la gente dice: ma perché non passate per radio? Sveglia, fateci passare per radio, fate in modo che la roba nuova emerga e che non siano sempre i soliti noti ad andare in giro. Assolutamente, assolutamente sì. Allora, torniamo in ambito ancora appunto un po' pauroso, perché adesso presentiamo un brano. No? Che brano avete scelto e perché? Che brano abbiamo scelto? Abbiamo scelto La Paura. Oh mio Dio. Vabbè, l'abbiamo scelto, senti, fondamentalmente perché stiamo spingendo abbastanza su questo brano, e appunto, siccome sono un po' paraculo, tanto se mi hai fatto dire parolacce le continuo a dire, colgo l'occasione per ringraziare anche Stefano Lodovichi, che è il regista, sempre un altro talento grossetano emigrato a Roma, che è il regista del nostro primo videoclip che abbiamo scelto di fare sul brano che stiamo per sentire. Quindi scegliamo questo perché tutto sommato è questo che magari comincerà a girare un po' di più in rete non appena il videoclip sarà pronto tra un mesetto, spero. Perfetto, allora grazie di essere intervenuti. Grazie infinite a te. Noi ci sentiremo poi ovviamente quando ci saranno novità, il nostro tramite Loris ci verrà in contatto. Assolutamente. Quindi questa è La Paura, loro sono Gran Turismo Veloce. Sagomato nel panico gelido, quando la paura si scatena in solo brivido, fredda come il suo inganno, agisce senza pietà, incidendo a fondo il suo ricordo tra quelli che uno ha già. A volte prende forma dai limiti fisici, costringendo il povero individuo a ferre regole, povero di fronte al mondo di una cinica società, si nasconde avendo la certezza che in fondo ogni essere può. Sagomato nel panico gelido, la paura si scatena in un solo brivido, e a volte prende forma rimuginando nei tuoi peggiori. Assumere, questo forse è il prezzo da pagare.